cowboy banjo a Milan, con la cravatta e la giacchetta blu. Cercano i sogni de seconda man, cercano le donne che han visto alla TV. E i cowboy banjo a Milan, con lo stipendio e le MS blu, han pochi soldi e i vengen de lontan, e una vita sola non gli basta più. E allora gio, gio, gio, gio, gio, che se tiro un fadeco. E allora gio, gio, gio, gio, gio, che se tiro un fadeco. Semafori, dove crescono i telefoni, ti confessi nei citofoni, e anche Dio e il ciapalmetro. Sha dai allura gio, cowboy vanse a Lugan, senza capot, con la radio che la va. Fan un casot de verità, yang, e so in dugana i attegne le deca. E i cowboy vanjo a Lugan, impenzinati davanti a una roulette. Tra un gioco e l'altro, i branken shai tusan, con la coscienza sarà da in gabinet. E allora gio, gio, gio, gio, gio, che se tiro un fadeco. E allora gio, gio, gio, gio, gio, che se tiro un fadeco. Semafori, dove crescono i telefoni, ti confessi nei citofoni, e anche Dio e il giuga al casino. Sha dai allura gio, con te il cervello che il paro un autogrill. Guai vedo se anche innamorà, se raccomandi va me a in gira deal. E i cowboy Ivan a Laura nel lunedì che il paro un cucudrill. E Laura è sempre Laura, c'ha un gratta e vinci che scappa in Brasil. E allora gio, gio, gio, gio, gio, che se tiro un fadeco. E allora gio, gio, gio, gio, gio, che se tiro un fadeco. Nella valle dei semafori, dove crescono i telefoni, ti confessi nei citofoni, e anche Dio e lo scappa in Brasil, fame a in gira Dio.